il consumo di suolo. Abbiamo deciso di fare questo evento con Val Bologna, andando a invitare appunto quattro ospiti di spessore, proprio per parlare di quella che è una piaga, diciamo, della nostra società, che sta andando a distruggere quello che è, secondo noi, una delle risorse più importanti che abbiamo, proprio il suolo, quel suolo che viene sempre più consumato per andare ad allargare strade, costruire nuove costruzioni, e non viene mai rigenerato. È una risorsa non rigenerabile, ma dalla quale derivano poi tutte le altre risorse. Senza suolo non c'è acqua, senza suolo non ci sono alberi, quindi non c'è aria, ma senza suolo non c'è neanche spazio per la vita. E quindi abbiamo deciso di affrontare questo argomento in maniera organica, partendo appunto dal suolo come risorsa, per arrivare fino a parlare di suolo per affrontare le emergenze, che sono l'emergenza climatica ma anche l'emergenza sanitaria. Tutto questo raffrontandolo con l'immobilismo politico nel quale ci troviamo, che stiamo cercando di affrontare. Torno a questo fenomeno, come si comportano le politiche locali? Le politiche locali si comportano sempre più spesso con quella che noi definiamo un ecologismo di facciata, cioè spesso e volentieri vengono tinteggiate di verde delle misure, ma che nella realtà hanno davvero poco valore reale. Un patto per il clima firmato, sottoscritto dalla regione, alla quale le associazioni ambientaliste si sono rifiutate di firmare, perché non parla, per esempio, di consumo di suolo, e se ne parla in maniera davvero superficiale, che non andrà mai ad impattare sulla questione reale. Abbiamo una legge, che è la legge 24 dell'Emilia Romagna, che è la legge sul consumo di suolo, è la legge urbanistica, è stata rimandata di anno in anno, una legge che dovrebbe prevedere lo stop al consumo di suolo entro il 2050, basandosi su una quantità di suolo consumato attuale, non è ancora entrata in vigore e si continua ancora a consumare. Ma anche questa stessa legge è comunque molto molto debole, perché contiene tantissime eccezioni. Per esempio, in questa legge non viene considerato consumo di suolo l'espansione di strade, autostrade o la creazione di nuove strade. Tutte le opere pubbliche non sono considerate consumo di suolo. Quando noi andiamo a costruire in campagna, andando a espandere quelli che sono i volumi attuali, quello non è considerato consumo di suolo. Allora noi capiamo che abbiamo una politica che vuole affrontare l'argomento, perché ha capito che l'argomento è importante e soprattutto i cittadini ci tengono, ma l'affronta in maniera superficiale, appunto con quello che chiamiamo ecologismo di facciata. E all'incontro di questa sera chi parteciperà? Parteciperanno Paolo Pileri, professore di urbanistica al Politecnico di Milano, Vincenzo Balzani, professore emerito dell'Università di Bologna, Andrea De Pasquale, che è stato consigliere provinciale con la presidenza della Commissione Urbanistica e dei Trasporti di Bologna, e Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, che ci parlerà proprio del collegamento che c'è tra il consumo di suolo e il cambiamento climatico, che è la crisi che dobbiamo davvero affrontare nel prossimo futuro.